svegliarsi la mattina con la stessa ossessione nella mente, sensazione di impotenza e una pietra sul cuore. Osservare i fallimenti fiorire nell'indifferenza e sopravvivere all'odio che mi circonda non mi può bastare. Salviamo la terra, lo dobbiamo a chi verrà dopo di noi. Salviamo la terra, non c'è bisogno di supereroi. Salviamo la terra, scacciamo via tutti gli avvoltoi. Salviamo la terra, mi ripeto, almeno fa tutto quello che puoi. Sento parlare d'amore in ogni angolo di strada, per poi veder trionfare il nulla e superflue fantasie. Ma se la ragione si arrende, il cuore vede molto più lontano, mi viene naturale tendergli la mano. Salviamo la terra, lo dobbiamo chi verrà dopo di noi. Salviamo la terra, non c'è bisogno di supereroi. Salviamo la terra, scacciamo via tutti gli avvoltoi. Salviamo la terra, mi ripeto, almeno fa tutto quello che puoi.